Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vi parliamo di un esperimento di successo che sta avendo luogo in Puglia. Uno strumento per i cittadini e le piccole e medie imprese per favorire l'innovazione sociale e la nascita di nuovi servizi per la popolazione. Mi riferisco ai Living Labs. Per parlarcene, Chiara Albicocco ha incontrato Marco Diciano, che è responsabile dell'ufficio ricerca e sviluppo di Innova Puglia, la società della regione Puglia che si occupa di ICT, cioè di tecnologie informatiche. Sentiamo. Living Labs, diciamo, è un ambiente che noi amiamo definire di innovazione aperta, in situazioni di vita reale, vita vissuta, nei quali il coinvolgimento attivo degli utenti finali, quindi dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni, delle associazioni che rappresentano i cittadini, permette di realizzare dei percorsi di co-creazione, co-progettazione, co-design, come si direbbe con diciamo un termine non totalmente italiano, di che cosa? Di nuovi servizi, di prodotti e di infrastrutture sociali. Quindi voi avete un portale, un sito dove ricevete i fabbisogni, le richieste dei cittadini e in qualche modo avete a disposizione un budget più o meno ampio, adesso ci dirà, attraverso il quale insomma qualcosa riuscite a realizzare. Sì, certamente. Diciamo che le parole chiave su cui noi ci muoviamo è un po' il percorso che abbiamo messo in piedi con questa iniziativa che ha un nome completo che diciamo recita Apulian ICT Living Labs, sono la partecipazione, perché dal laboratorio al cittadino l'innovazione diventa partecipata, no? La seconda parola chiave è l'ascolto, nel senso che la tecnologia è a supporto di quelle che sono le reali problematiche e le reali esigenze del territorio. E poi il terzo aspetto importante è appunto quello della condivisione. Come si fa condivisione? Dal nostro punto di vista attraverso una serie di progetti di sperimentazione nei quali diciamo dalla ricerca si passa alla rete, quindi la conoscenza in qualche modo diventa una conoscenza condivisa. Fate un po' da tramite, diciamo, da quelli che sono i fabbisogni, le richieste dei cittadini a quelli che poi saranno i realizzatori, e in qualche modo li sostenete anche in una parte iniziale economica. Adesso, se non sbaglio, ci sono 15 milioni di euro di fondo base, come dire, no? Certamente, sì. Ecco, quando siamo partiti? A maggio di questo anno, ecco. Dove diciamo come partenza noi definiamo una prima fase nella quale abbiamo avviato proprio la raccolta di questi fabbisogni di cui parliamo. Una seconda fase invece è stata avviata circa alcune settimane fa e scadrà il 19 di dicembre. E in questa fase noi pensiamo di raccogliere dei progetti di sperimentazione. Questi progetti di sperimentazione saranno cofinanziati fino ad un valore massimo di 150.000 euro per progetti presentati da singole imprese e fino a 400.000 euro per progetti invece presentati da reti di imprese. Quindi siamo già, diciamo, nella fase di progettazione e di realizzazione. Ci fa qualche esempio di quelli che sono i fabbisogni che avete riscontrato e che state cercando giustamente di finanziare, di realizzare? Certamente, per esempio nel campo dell'inclusione sociale noi abbiamo raccolto una manifestazione di interesse da parte della Croce Verde Italiana, in cui loro manifestano un problema legato al fatto che gli alunni stranieri neo arrivati, soprattutto nell'inserimento nelle scuole, incontrano notevoli difficoltà nel processo di integrazione sia scolastico che relazionale. No? Noi in Puglia abbiamo, secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale, diciamo circa 13.000 studenti stranieri, no? Soltanto 6.000 nella provincia di Bari. Loro cosa propongono? Loro propongono di affrontare il problema del processo di integrazione, perché normalmente lo slittamento di una o di due classi inferiori rispetto all'età anagrafica che viene imposto per sopperire a queste iniziali difficoltà di comunicazione da parte dello studente straniero diventa causa di demotivazione appunto per il minore, no? E quindi diciamo, loro propongono di affrontare questo tema, vogliono cercare delle soluzioni e immaginano di poter realizzare una piattaforma telematica che possa consentire agli insegnanti, quindi magari di fruire di nuovi metodi e modelli di insegnamento, magari addirittura anche acquistando dei crediti MIUR per la professionalità, si potrebbe anche gestire un certo numero di crediti in funzione delle ore sviluppate con queste nuove metodologie. Per gli studenti invece, diciamo, l'idea è quella di mettere a disposizione degli strumenti, hardware o software, per seguire le lezioni magari anche più volte, magari anche da casa, in comunità, per i minori fuori famiglia. Piattaforme di questo tipo possono essere utilizzate in ambito sociale anche su altri aspetti, ad esempio a favore degli anziani che vivono soli, oppure per i bambini ricoverati in ospedale, per i portatori di handicap. Insomma, questo tipo di piattaforme possono essere poi utilizzate anche in ambiti altrettanto importanti e fondamentali. Assolutamente, per esempio un altro fabbisogno interessante che ci proviene dalla lettura del database è quello anche relativo alla fruizione dei beni culturali da parte delle persone con disabilità sensoriali, per esempio non vedenti o non udenti, no? Cioè qui si tratta, diciamo, di ricostruire un po' il patrimonio culturale, soprattutto presente nella nostra regione, ma direi in generale in tutto il territorio italiano. Assolutamente. Con descrizioni, appunto, di monumenti che possano essere ascoltati da un non vedente e letti invece da un non udente. Ecco, questo bello strumento dei Living Labs nasce in America, si sta diffondendo in Europa perché la comunità europea sostiene questo tipo di progetti. Per avere informazioni sul progetto, ci dà un indirizzo internet? livinglabs.regione.puglia.it. Bene, anche per oggi abbiamo concluso. Ci risentiamo domani. Buona serata.